in diretta dall'aula di giustizia numero 8269. Va ora in onda la prima puntata del 2012, lo so, siamo in ritardo, ma è la giustizia italiana, di Opencast Alpha. Opencast Alpha, la prima puntata del 2012. Siamo tornati. E pensavate di esservi liberati di noi? No, no, no, no, no. Noi siamo ancora qui. Siamo decimati, ma siamo qui. Sì, stasera questa puntata andrà in onda in formato ridotto per adattarsi alle nostre capacità mentali. Siamo rimasti in due. Coso. E io. Vabbè, però abbiamo un ospite speciale. Sì, abbiamo un ospite d'eccezione. Vediamo se riusciamo a farlo sentire. Attenzione, adesso proviamo. Non è facile. Non è facile, complimenti a tutti i pianisti. Faremo sentire un momento topico. Comunque, abbiamo ospite il cane che russa. Russolo. Comunque, stavamo dicendo che siamo in diretta dal tribunale. Per le cause perse, siamo qui pronti a batterci per voi. Essendo noi delle cause perse per definizione. Cribio. Speriamo nella prescrizione. Diciamo così. Quella del medico. Sì. Allora, Cosa è successo in tutto questo periodo che noi siamo stati via? Cosa è successo? Allora, ci sono state le ferie di Natale. Natale. Oh, I pranzi, le cene di Natale. Oh. Capodanno. Ma veramente? I botti di Natale. Con Rintintin faccio fatica a fare i botti. Ah. Si spaventa. Rintintin si spaventa. È certo che già li fa di suo i botti. Che se non ne fa ancora. Poi c'è stata la cena della Befana. La Befana. Perché si sa, all'Epifania poi tutte le feste si porta via. No, non le ha portate via tutte, perché non so, forse qualcuno l'ha saltata, però io sono dovuto andare. A cosa? Alla cena dei Lug del mondo. È stato un evento. Varese, Milano, Uzbekistan. È stato un evento interessante a cui purtroppo non ho potuto partecipare. Ti dico solo che alla fine del primo hamburger ero già ubriaco. Strani hamburger da quelle parti. Sì, devo dire la verità. Sì. Comunque. Niente, no. Beh, parliamo di cose serie, dai. Qualcosa è successo. Vabbè. Dunque, nel mondo diverse cose sono successe. Diciamo che ho guardato l'altro giorno di Straw Watch e hai scoperto? Che cavolo, Gentoo ancora ventesima. È strano. C'è qualcosa che non va. Dici? Ma il problema grosso non è Gentoo che è ventesima. Chi la usa? No! Allora, la devi smettere. Il problema grosso è che prima c'è Mandriva. Mandriva, ma non esiste più. C'è Slackware. Scusa, ma non esiste più Mandriva. Ho capito, sarà qualcuno che si sbaglia e continua a entrare nel sito. No, però è discesa Mandriva. C'è OpenSUSE. Cioè, ma per quale motivo? C'è CentOS. Chi è che usa ancora CentOS? È in salita, tra l'altro, CentOS. Non ho capito perché. È un mistero. Non siamo non nel si centenario, sa. Eppure sale. Vabbè, comunque... Lasciamo stare questi problemi con Gentoo, perché non capisco. Vabbè, parliamo di cose serie. Cose per esempio. Serissime. Per esempio, potremmo parlare di una conferenza che c'è stata dei BlackBerry. Ma non ne parleremo. Ma non ne parleremo perché quello che c'è andato non c'è. Ok. Potremmo parlare degli iPhone. Ma non ne parleremo perché non li abbiamo, non li usiamo. Siamo contrari, soprattutto perché li vengono pagati quelli che fanno gli iPhone 1 euro all'ora. No, quello era interessante. Come era interessante? Sono fatti a mano. Cacchio, è vero. Okay, ma hai letto quanti passaggi ci sono per fare un iPhone o un iPad? No, a me quello che mi piaceva. A me piaceva che ci vogliono 5 giorni. Sì. Ok, per fare un iPhone. Ci vogliono 5 giorni. E 325 mani. No, cioè, quello per l'iPad. Per l'iPad 325 mani. Per l'iPhone 141. Uno passaggi. Ma la cosa strana, come dicono, fanno a essere le mani dispari. Infatti mi stavo chiedendo, perché ci sono stati dei problemi con le prime versioni. Ho capito. Per cui adesso hanno delle mani dispari. Ok. Capisco. È un processo difficile, estremamente pericoloso. Difficile. E comunque ho scoperto che anche in Cina il governo, visto che questi poveri cristi prendono pochi soldi, non gli fa pagare le tasse. E mi sembra giusto. E no, perché io continuo a pagarle. Non capisco per quale motivo. No, ma io mi stavo chiedendo, se questo qua prende 1 euro all'ora. Allora. Allora, fanno dei turni da 12 ore al giorno. Ci vogliono 5 giorni per farne uno. Facendo due conti, non gli arriva proprio un cazzo di quello che tu lo paghi. No, okay. Devo dire la verità, perché la pubblicità costa. È quello. Sì, è l'unica spiegazione. Anche la tomba di Steve Jobs è un casino. Hanno dei costi arretrati ancora da pagare. Comunque, noi siamo fortunati che tutto quello che usiamo non è fatto in Cina. Cacchio. Aspetta. Ah, ragazzi, stiamo usando il nuovo mixer e i nuovi microfoni. Fatti in Cina. Grazie, mamma Cina. Probabilmente molto meno di 1 euro, perché la qualità veramente lascia desiderare. Non è neanche uno schermo touch. Ma diciamo una cosa: Dove dice, cavolo, diciamolo, hai trovato quella musica oscena che abbiamo ascoltato prima? L'hai scaricata tu da Jamendo. È una band che abbiamo già passato in precedenza, a dire la verità. Quindi perché fare solo una volta gli errori? Continuiamo. No, magari qualcuno era piaciuta. Chi? Non so, il gruppo era The Freak Fandango Orchestra. Che nome è? Oppure che The Freak Freak Frickettoni. The Freak Fandango Orchestra. Freak Frickettoni. Oppure The Freak Fandango Orchestra. Freak Frickettoni. Oh, freak. Ok, il brano era The Balkan Beats. Scusa? I Beats. I Balkan Beats. I balconi? No, dei Balcani, no, balconi. Quella suona era Balkan Beats. Io balconi, eh. Da, veramente... sembrava un po', diciamo, orientale come musica russa o dei Balcani. Ma dove l'abbiamo trovati? L'hai scaricato tu da Jamendo, un sito molto interessante dove si possono trovare diverse musiche, tutte ovviamente in Creative Commons. Fate una cosa, il link a questo bellissimo brano lo troverete su www.gl-como.it. Fate una cosa, se potete non ci andate, scaricate dai MUL qualcosa di normale. Ma io mi dissocio. Anch'io, soprattutto anche il MUL. Tu sei dissociato. E questo si sa. Comunque, con questo cosa volevo dire? Non lo so, però c'ho ragione. E infatti mi cosano. Allora, altre cose che sono successe. Vabbè, ma come non parlare di Anonymous? Abbiamo scoperto che febbraio è il mese delle offerte. E sì, perché di solito ogni mese è il mese delle offerte. Non farti scappare l'offerta. L'offerta scade questo domani. Mese è l'FPF. FPF. E che cosa vuol dire FPF? FPF vuol dire FPF. Vuol dire praticamente vabbè, ma è una parolaccia. È una parolaccia, ma è un ma si può dire politici? È per l'ennesima radio? Action che Anonymous lancia sulla rete. L'ennesima, diciamo. Doveva farne 1000 a febbraio, ne ha fatta una. Ne ha fatta, no, due. È facile, col freddo, ha nevicato anche. Ah, è vero, è vero. Vabbè, comunque c'è stato un problema per cui Anonymous ha tirato giù un paio di siti. Vabbè. Due senatori o deputati comunque dell'UDC, perché dicono che c'è del marcio in Transilvania, mi pare, capisco. Mi pare che il messaggio sia questo. E allora hanno detto che a febbraio ne faranno di ogni. Meno male che oggi è il 20. Oggi è fine febbraio. Oggi è generico, è quasi Pasqua. Auguri. Speriamo di arrivare prima di Natale dell'anno prossimo. Comunque, mancano ancora pochi giorni. Resistete. Vediamo. Comunque, esatto. In America invece hanno paura. Esatto. A marzo, no? O ad aprile. Hanno paura che gli tirino giù la rete elettrica. Sì. Cioè, fai le reti elettriche col culo e poi c'è paura. Soprattutto perché... immagino questo Windows 90... Paura, né? Paura? Immagino questo Windows 98 che controlla, non lo so, la corrente di 12 milioni di persone. Ma io mi immagino tipo le centrali nucleari dei Simpson. Con Homer. Esatto. Che non so, è una bella lotta lì fra Homer e Windows 98, eh. Vabbè, però adesso lo stanno passando a vista. Ah beh, allora. Comunque, andatevelo a leggere perché c'è proprio... Si sono messi a scrivere anche una bella cosettina, vabbè. Vabbè, ma sai, scrivere si fa in fretta. Particolare, veramente particolare. Comunque, hai sentito che i Mac non sono più affidabili? E questa è la vera svolta. Sì, sì, attenzione. Sì, perché quest'anno i Mac non sono affidabili. Non sono affidabili mentre migliorano Lenovo e Toshiba. Che mi pare che quelli non siano fatti in Cina. No, sì. Ah, ecco. Però vorrei adesso... Che poi magari ci mandano anche una sponsorizzazione. Stiamo registrando su un Lenovo che è vecchiotto, eh. Vecchiotto, ma si difende bene. Gira bene. Per evitare problemi con tribunali o robe del genere, diremo che questo Lenovo è arrivato ultimo su una pista. È arrivato 3 secondi dopo, ma anche 3 secondi prima. Diciamo che c'era un cavo come saldato male, come il neutrino che correva dietro alla luce. Vabbè. Ma adesso a quanto pare anche i neutrini ci hanno deluso. Guarda, la Gelmini veramente. Che già aveva gettato queste corone di alloro sugli scienziati italiani che fanno queste scoperte. Io mi immagino veramente la Gelmini lì vicino al, alla corsa di pista ad ostacoli, che dice vai neutrino, vai, vai neutrino, neutrino perché devi farcela. Sono convinto che il neutrino si muova più velocemente della luce solo perché c'è la Gelmini. Certo, certo. Comunque di sicuro adesso è più sicuro percorrere il tunnel. Il tunnel, sì. Velocità più bassa, insomma. Prima o poi ne usciremo anche noi. Certo. Sì. Vabbè, comunque comprate Lenovo perché Lenovo è affidabile. Esatto, Apple sta perdendo punti secondo una ricerca della società americana, che la Resquecom, sì, che fa dei controlli sui call center delle assistenze. Ma chi può dirlo, nel senso, vabbè, io tanto non li compro. altre cose particolari, per esempio potremmo parlare che oggi ho visto la foto di un ciccione e io non immaginavo che fosse così ciccione quello di Mega Upload. Ma era grande il sito. Mi ricordo che si chiamava Mega. Ma secondo te è normale che si chiama Kim? Sì, è quel, no, si era fatto cambiare. Sì, .com è il suo, no, quello è il suo cognome. È il nome si è fatto cambiare. Anch'io. Si chiamava Giovanni. Avrei detto Geltrude. Comunque adesso hai i domiciliari, meno male, non so dove secondo possa me la, stare. Secondo me l'ha mandato ai domiciliari perché gli costava troppo, sì, mantenerlo. Ma perché cioè proprio, insomma, ma poi è ho sentito che c'aveva un casino di soldi. Sì. Macchine. È pazzo quello. C'aveva un Hummer Lamborghini. Un Hummer Lamborghini. Che credo che sia una cosa che costa l'ira di Dio. Comunque è normale perché adesso che lo vedo è l'unica macchina che lo contiene. Ok? Vabbè. Okay, sei proprio cattivo dentro. No, ma guarda sotto perché c'è un'immagine che è uguale. Effettivamente. E sono i Griffin. E niente, vabbè. Manderemo il link su www.gl-com.it. Punto linkamelo. Comunque. Non lo so, altre cose, tu hai visto qualcosa di particolare? Guarda, qualcosa... io sono rimasto putrefatto da una notizia. È un po' si veramente, sente. Esatto, no, quello non, vabbè. Da una notizia che mi ha veramente scioccato, ma te la dirò dopo. Come dopo? Dopo, prima mettiamo su un pezzo. Mi lasci così? Certo, ti tengo, faccio crescere la tensione, si usa. Incredibile. Un bel pezzo del Silent is Sexy, per cui tu continua a parlare, per favore. Il pezzo è 1984. Smile. Thanks, she's made in 84. Opencast Alpha. Sono andato io. Sei andato tu. Yeah. Siamo tornati dal 1984. È stato un viaggio. Ma pensavo peggio. Perché l'84 me lo ricordo come un anno difficile. Quel periodo lì, sì. A 4 anni tutti mi scherzavano per le dimensioni no, della bici. Della bici. Ma probabilmente mi facevo ancora pipì a letto a 4 anni. Non mi ricordo. No, abbastanza sicuro. Ecco, comunque non è migliorata la situazione. No. Continui ad avere la bici. Allora, cos'è che mi dovevi dire? Mi hai fatto rimanere con l'ansia. Allora, la notizia. Che notizia? Bomba, insomma. Questa notizia bombastico. Che gira, a quanto pare. Pare che Adobe. Aspetta, lo sapevate? Lo sapevate? Sapetelo. Lo sapevate? Sapevatelo. Butto. No, pare che Adobe abbia deciso che Adobe o Adobe, a seconda di come vuoi pronunciarlo. Chiameremo Fufi. Fufi ha deciso che una delle prossime successive versioni di Flash, che un giorno usciranno anche per Linux. Come un giorno usciranno anche per Linux? Ecco, calma, non è che è proprio dietro l'angolo, sai, con molta calma. Ok. Saranno supportate solo su Google Chrome. Cioè, ma aspetta, no, c'è qualcosa che non mi torna. Vuol dire che il plugin per i browser funzionerà solo su Chrome. E allora è il browser. Esatto. E ma, cioè, perché? Ma perché a quanto pare hanno deciso che dopo anni e anni e anni e anni usare l'interfaccia che Netscape ai suoi tempi aveva inventato per i plugin, che Netscape, API, plugin, interface, API, Fufi. Non gli piace più, perché quelli di Chrome, come al solito, quelli di Google hanno deciso di reinventare la ruota, hanno inventato delle nuove interfacce di programmazione per il plugin che si chiamano PAPI, con due P. Come fai a dire due P? PAPI. Vabbè. Ok. PAPI. Che però ovviamente sono supportate solo da Chrome. Vedi te. Ergo, per cui e quindi se loro decidono di fare il plugin che funziona solo con PAPI, PAPI. O Mozilla decide di usare PAPI anche loro, di implementare PAPI oltre non a. Ho bisogno di fare la doccia. La sera vado a letto così. Hai comunque visto? Vuoi un asciugamano? No. Un altro sputacchio? O il tergicristallo. Ok. Oppure, secondo me, l'unica soluzione che possono avere è spingere tantissimo sull'HTML5. Direi. Ma Flash, domanda. Ah. Perché? La domanda è, ma perché? Esatto. Perché ci eravamo dimenticati un pezzo. No, purtroppo al giorno d'oggi certe cose ancora richiedono Flash. È vero, cioè, diciamolo. Allora, io non ho ancora trovato un sito porno che faccia vedere i video infatti, in HTML5. È quello che stavo cacchio pensando io. Vedi? Però, vabbè. No, qui siamo aperti a commenti, smentite se qualcuno ha delle notizie. Purtroppo ci manca l'esperto stasera. L'esperto. Vabbè, comunque. Parliamo di cose serie. Flash non girerà su Linux. No, girerà su Linux. Solo su Chrome. Funzionerà solo con i browser che implementeranno API. Ma domanda: Pepper, c'è modo si chiamano di disattivare Flash e PAP? E chi se ne nel senso? Vabbè, sì, basta che non lo installi. Non lo installo. Vabbè, allora che, cioè, nel senso, allora non hai grossi problemi. Però, quindi, insomma, cioè, a parte i siti porno, nel senso, cos'è che mi perde? Cioè, ma ultimamente sempre meno, sinceramente. Cioè, perché comunque il porno. Beh, chat roulette, quando vai ti metti nudo in cam su chat roulette, quello non potrei farlo. Non ho la webcam. Ah, ecco, ciao, perché mamma. Ecco perché non ti funzionava bene la cosa. Ecco. Non capivo. Hai cercavo visto di smanettare, ma forse non è il punto giusto. Comunque, niente Flash. Ma comunque a quanto pare Adobe ha deciso che Flash morirà, perché cioè, almeno nel senso, no, non è per altro. Oramai siti completamente fatti in Flash. Purtroppo. Cioè, stanno morendo, ma purtroppo c'è ancora gente che dice: sai, io faccio siti web, so usare Flash. No, sei scemo. Esatto. Okay. Comunque, parliamo di cose serie. Ho deciso che farò un sito tutto in testo. Solo testo. TXT. Senza neanche i link. Senza i link. Cosa ti scrivi questo link? Indirizzo per andare all'altra parte. Copia e incolla. Ah, capito. Ho detto anche come fare, cioè, copia e incolla. Mi ricorda un po', sai, il libro game. Sì. Quello che dice salta il capitolo 3. Bellissimo. Eh? E allora tu devi andare. Non era bello, capitolo 3. Era bellissimo. Ho pensato di farlo in PDF, però. Per ridurre i costi. In PDF. Va bene. Senza Adobe. Ah, così. Sì, cerchio. Non è facile, comunque. No, beh, si può fare. Non lo so. Comunque, altre cose che sono successe. Ma ne sono successe di cose. Allora, abbiamo detto che i neutrini sono sono più veloci del sono più la luce è più veloce del neutrino, uguale assai ai neutrini probabilmente. Ma c'è stato un piccolo errore perché hanno detto: allora sincronizziamo gli orologi 3 2 1, uno ha cliccato su 0 e uno ha cliccato su sull'1. Sì, era lì, ma all'1 o al via? Ma no, ma perché c'era Gelmini che stava passando dal tunnel. Distratto. Sì. Vabbè, comunque, cose particolari. Per esempio, stanno arrivando i Google Docs per Android. Ho sentito questa cosa. Peccato che non uso i Google Docs. Neanche io, anzi sto cercando di togliere tutto quello che sto usando su Google. Non è facile perché mi sembra estremamente monopolistica come cosa. Infatti sto cercando di togliermi. Esatto, però Android gira veramente bene. Ci ho giocato ancora oggi e pebacco. Mi piacerebbe vedere la versione 4. Piacerebbe proprio vederla girare. Ah, perché sul tuo telefono non gira. Assolutamente no, già l'ho dovuto craccare per poter mettere la 237. Vedi un po' te se no, ci la fanno 4 la 4. È bella, è molto più bella. È molto più bella, sì. Dicono che hanno il supporto per l'USB, per le memorie esterne. Chi se ne ha un telefono, non ho memorie esterne. Per tirar via la memoria esterna devo staccare la batteria. Vabbè. Non hai memoria. Faccio fatica. Hai visto che è uscito video VLC 2? È uscito video LAN 2, non l'ho ancora provato, l'ho scaricato, non l'ho ancora installato. Vabbè, allora facciamo così, facciamo una recensione proprio così, a caso. Così, a caso. Diciamo che l'icona è particolare, è uguale a quella di prima. Vabbè, ma l'hai provato? No, però l'icona allora è quella. No, pare che sia molto più brillante. Sì, perché il colore è vero, l'hanno... Ma no. Non era quello, no. Vabbè, pensavo io. No, vabbè, cioè, ti fa vedere un video, ti fa vedere come cavolo fa a essere più brillante. È più leggero nel riprodurre, più veloce nell'eseguire. Voglio dire, quando il player deve cominciare a riprodurre filmati in HD full, diciamo, deve essere, insomma, fino adesso VLC gira bene. Io comunque fino adesso su certe cose in player. Cioè, con parole tue, il player e basta. Perché? Perché certe cose anche VLC faceva fatica. Ma ti dirò, allora, smettila. No, vai. Allora, ogni tanto quando cerco di aprire le cose con M-Player, ma proprio quello brutale che non mi mette né M-Player da riga di comando. Esatto, problema, a un certo punto non trovo più la possibilità di mandargli dei comandi, chiuderlo o robe del genere. Basta, vai in console, fai Ctrl C. Alla console, no, ma quando parte in automatico M-Player. Non mi chiedere perché, ogni tanto mi capita. Tipo che lanci da interfaccia grafica, esegui, esatto. Lanci in player per leggere un audio. Esatto. Tu sei un genio. Genio. Non è facile, No, non so. Cioè, è veramente difficile poi dirgli: è entrato il mio capo, smettila. Allora di solito butto per terra il computer e lo colpisco forte. Cioè, anche perché abbassare il volume è una cosa troppo complessa. Dici che è una cosa possibile? A volte funziona. Creepy. Ho buttato via due computer. Comunque, è uscito VLC. È uscito VLC 2, ha subito una riscrittura del codice, diciamo, in molte buone parti. Hanno aggiunto codec nuovi. Non hanno aggiunto i commenti? No. Ah, speravo. ARM. Cosa vuoi dirci? ARM. HP. ARM HP farà arrivare i server basati su processori ARM. Tu vuoi, per esempio, tu che lavori con l'Arduino e non sai cosa fare, vorresti un server ARM? Potrei farci un server con l'Arduino. Perché adesso, no, ARM. Vedi com'è? ARM. L'Arduino? Lascialo, buttalo via. Perché c'è questo problema. HP ha questi server che sta creando con processori ARM. Problema: non c'è il codice. Che codice? Non c'è niente alla fine. Cioè, perché? Nel senso, virtualizzamelo, non esiste. Gestiscimelo, non esiste. Stampamelo, non funziona bene. Allora HP ha deciso di visto che le macchine ci sono e sembrano veramente ganze, perché comunque consumano più o meno come una lampadina e girano di brutto. Ma io uno a casa me lo metterei. Ho capito, però cosa te ne fai? Cioè, a capitelo, te lo dà, te lo regala anche. Dice, vabbè, io te lo regalo. Per me entrano di notte e ti rubano il codice sorgente. Cioè, nel senso... Tanto io non scrivo niente, non sono mica capace di far quello. Ho capito, cosa te ne fai? Vabbè, ci installo... Cosa ci installi? Non ci puoi mica installare Windows, eh? No. E allora? Qualcosa già pronto per ARM. Non esiste. Non c'è niente Android. Che gira su ARM. Android. Cioè, una Debian che gira su ARM. Cioè, ragazzi, non è che stiamo parlando di due processori, cioè, tre Migo processori. Gira su ARM. Stiamo parlando di 288 processori. Vabbè. Cioè, sono lì tutti col dito nel naso che ti dicono adesso cosa faccio, adesso cosa faccio. Cioè, di notte non dormi, eh. È meglio averne. 288 chip che ti dicono adesso cosa faccio, adesso cosa faccio, adesso. No, quelli sono altri. Ah, ok. Ok. Vabbè, però, comunque. Quanto costa quel coso qua? Ma no, ma per me te lo regalano anche. Ti dicono, cioè, vabbè. Se allora, scusa, il chip ha un consumo dichiarato chip. Di 1,5 watt. Sì, cioè. Che disco gli mettiamo? Ma SSD, cosa vuoi fare? Tutto un coso del genere. Ma poi, scusami. Come te lo vede? C'è un chip e chop. Che cosa? Ma cosa stai dicendo? I dischi SSD. Vuoi che no? Non lo so, non ho mai visto io una scheda ARM. Però mi ispira. Non deve essere Ma scusa, male, posso farti una domanda? Vabbè, quelli, aspetta, gli aggeggi tipo... Dimmelo. Gli aggeggi tipo i plug computer. I plug. Plug computer tipo Shiva, quelle cose, non sono basati su ARM. Sì. E quindi? Sono basati su ARM. Ma non lo so, mi lasciano, mi inquietano. Ma... averne 288 per casa. Ma via! Ma io un serverino a casalingo me lo farei anche con un coso del genere. Sì, però 288 mi sembrano eccessivi. Beh, dipende che cosa devo farci sul serverino. No, per carità, a me piacerebbe. A capì, se te ne avanza uno, qualcosa ci inventiamo. Dai, sì. Ci facciamo l'opencast. Esatto, facciamo una recensione molto accurata. Ci mettiamo quei 5-6 anni a prepararla. Sì, facciamo l'opencast 3D. Esatto. Comunque, se volete, chiamate 888-922-999-455-832 asterisco cancelletto radice re. Quadrata re. Re, esatto. E vi risponderà il signor HP e chiedetegli il server. Un bel server basato su ARM Cortex A9. Ah, parliamo ancora di ARM? Parliamo di ARM, tanto qua si parla solo di ARM. Ragazzi, lo sapete, no? Che è uscito... l'Asus, il Prime, sì, certo. Tegra 3, mica paglia. Un giro. No, neanche io. Ma sai perché? Perché? Perché tutti quelli che ce l'hanno si perdono. Anch'io ho sentito questa cosa. Non trovano la strada. Ci sono migliaia di persone che sono uscite a comprarle e non riescono più a tornare a casa. Non riescono più a tornare a casa, però. Parlano più la strada. GPS che è sparito. C'è, non c'è, a volte c'è, a volte non c'è. Pare scompare. È così. Vabbè, comunque. Comunque. Asus, noi potremmo fare i beta tester, eh? Esatto. Se volete mandarcene uno, noi facciamo una prova a vedere come si comporta assieme al server. Potremmo dire anche che arriva per primo per più di 3 secondi anche. Esatto. Vabbè. Comunque, e Texas Instruments? Non sta mica a guardare. Mica c'ha le mani in tasca, eh. E quindi? E quindi ha fatto un altro chip e chop. Un bel chip SOC. Chip e chop. Ok. Sempre basato su ARM. L'OMAP 5. Sì. Non sapeva come chiamarlo. Come l'abbiamo chiamato l'ultimo? OMAP 4. Che culo. E questo lo chiamiamo 5. Questo 5 perché... Ma sai perché si chiama 5? Perché? Perché è basato su un quad core. Se mangi 7 e 30 giorni a novembre, che aprile, giugno e settembre, di 28 ce n'è uno. Lo poteva chiamare febbraio, no? Esatto. Vabbè. Comunque è un quad core, ma è particolare perché... Da quello che mi ricordo sono due processori accoppiati. Esattamente, diciamo. Sono due processori ARM Cortex A15. Cioè, mica fuffi, cioè... Fuffi. Diciamo. Quindi è un... Cioè, non è un quad core puro, no, è quasi un multiprocessore. È come l'Intel e il Core Duo. Due dual core o roba del quelle robe lì non si capisce mai niente. Che dici, che cacchio l'hai fatta che fare? Che vuole, vuol dire non vuol dire. Sì, è come dire una donna con i baffi. No, vuol dire non vuol dire. Sì. Comunque, allora, Texas Instruments... Oppure una donna che non ve la dà. No, questo sì. Esiste. Ah, cacchio. Esatto. Maledizione. Texas Instruments, per non restare indietro, diciamo, dopo tutta la bagarre che ha fatto Tegra uscendo, ha detto: te lo faccio vedere io il chip. Esatto. Si è calata le braghe e ha fatto. Frac! E ha fatto dei test. Sì. Comparativi. Sì. Veramente. Io tra l'ho visto, i due sistemi. C'è da ridere. C'è un video. Veramente. C'è un video, cercatelo. Ci lascia perplessi. Moana gustosa, appunto. No, mi ero confuso, no. Scusa. Armati. Metteremo il link su www.gl-como.it/vattela pesca. Esatto. E comunque c'è questo video che ci sono due tablet, uno con Tegra 3. Non diciamo quale. Inizia per A e finisce per Sus. Non diciamo quale, è uno dei tanti tablet con Tegra 3. E dall'altra parte c'è questo tablet sperimentale con questo nuovo processore, l'Ofifi o Fufi 5, vabbè, quello che viene dopo il 4. Comunque, vabbè, gli fanno aprire queste 20 pagine web, mi pare, comunque delle pagine web, e dopo un tot, quando l'ha finito di caricare, ne aprono altre. Quindi è un test sul caricare le pagine. Sì, più che altro, più che sul caricare, è sul renderizzare le varie pagine. E diciamo che quello della Texas Instruments ci mette uno sputo di secondi, l'altro più o meno due volte, tre volte, più o meno, il tempo del Texas Instruments. Beh, se fosse così sarebbe un gran risultato. Certo. Siamo scettici. Non lo so. Noi siamo scettici. Nel senso, io mi immagino questo server HP con i 288 chip ARM dietro, con questo cavo collegato a VGA a questo tablet, che per carità è un prototipo, è un monitor tablet. Certo. Ok. Ah, dici che sì. Per me così funziona. Però non vogliamo dire che Texas Instruments non fa le cose fatte bene. Nel caso dovesse avere un tablet da testare, noi siamo qui pronti, perché mica pizza e fichi. E per cui Texas Instruments, se vuoi farci testare un prototipo di tablet, noi lo testiamo volentieri, Il nostro indirizzo lo conosci. Ti ricordo www.gl-como.it, lì c'è contatti, contattaci. Io direi che con questa possiamo anche chiudere questa puntata di Opencast, diciamo. Ganza, veramente ganza. Mi sono divertito una cifra, non so se HP si è divertita come me. Secondo me di più. Che c'è qui 288 chip che cippano. In questa puntata in studio c'era Coso e io. Esatto, e il cane che russa come ospite speciale, 288 chip che giravano intorno a distrarci. Non è rumore di fondo, sono i neutrini che girano. Vi ricordo che tutta la musica che passa su Opencast è in Creative Commons e troverete sul nostro sito i link per scaricare questa e di più bella musica. Che è difficile trovarla, perché noi ci mettiamo l'anima e core. Vi ricordo www.gl-como.it e chiuderei con l'ultimo brano di questa puntata. Una cosa prima di finire, perché sennò poi va a finire che ce lo dimentichiamo. Cercasi, sede disperatamente. Giusto, questo è importante. Noi abbiamo telefonato a... com'è che si chiama? Paola, com'è che si chiama? Laura, come si chiama? Aspetta, no, diamo la notizia per bene. Cerco sede disperata. Diamo la notizia per bene. Per bene. Da aprile... il gruppo Linux di Como sarà senza una sede. Chiama anche tu l'800-800-800 e fai 800, una donazione. 800. Aiuta. Un rene. Aiuta il GL Como a trovare una sede adatta. Hai una sede anche tu. No, e purtroppo dove il gruppo Linux Como si troverà appunto senza una stanza dove trovarsi al caldo e o al freddo. Chiamiamolo anche loculo. Un loculo, uno sgabuzzino. Un bagno anche, quello è abbastanza utile. Sì. E siamo in cerca di una soluzione, per cui se qualche ascoltatore in zona Como fosse a conoscenza di un sottoscala, ma anche noi meno. Noi siamo in grado di... corrispondere, perché non è facile, non è facile, complimenti, corrispondere per questo sottoscala alla cifra annuale di, mi raccomando, 0 euro. Però IVA compresa, eh? IVA compresa. E col contratto, perché noi non ci fidiamo, noi le cose zozze non le facciamo, le cose nere non le facciamo. Esatto. E... comunque contattateci sul nostro sito se avete qualche notizia che possa aiutare questo sfigato di un gruppo Linux. Ragazzi, tendoni no, perché già ci siamo stati e diciamo non è la soluzione migliore. Il ponte per ora ci siamo, vorremmo uscirne se possibile con delle mura, però non è detto. Adesso proveremo a vedere, speriamo nei comuni, speriamo in qualche... ma... opera pia. Vi terremo informati sulle prossime puntate di Opencast. Chiuderei con un pezzo, diciamo, di buon augurio. Qual è? La terribile maledizione del faraone Tutankhamon. Incredibile. Attenzione. E non aprire quella sede. Dio mio, che terribile maledizione. Vediamo lo che contiene. Non lo haga. Hai scucciato la maledizione. Avete ascoltato Opencast Alpha, il podcast tecnologico disimpegnato del GL Provo. Tutti i link e le puntate su www.gl-provo.it.